Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Siamo pronti dal Groove Mastery Studio per l'ennesimo appuntamento, a dire la verità, puntata numero 195 del nostro Soundcheck, la prova del suono di Radio 24. Buon pomeriggio a tutti da Gegè Telesforo, puntata quella di oggi con la quale vogliamo presentarvi in questa prima parte alcune novità, ma anche raccomandarvi alcuni concerti da seguire anche questa sera e nei prossimi giorni. Direi di farlo subito, così avete il tempo di potervi procurare i biglietti magari via internet nelle prevendite online o andando direttamente a seguire i concerti che so questa sera all'Auditorium Parco della Musica, il ritorno della bravissima Chiara Civello che poi si recherà il 20 al Teatro Forma di Bari, e credo che Chiara Civello si presenterà dal vivo con una formazione messa su per lei dal suo attuale produttore discografico, il bravissimo Nicola Conte. Sempre questa sera, per gli amanti dello swing, si c'è celebra la musica di Glenn Miller con la Glenn Miller Orchestra al Palabam di Mantova, poi domani, lunedì 15, al Teatro Verdi di Firenze. Ci sono anche i Two Cellos questa sera al Fabric di Milano, ma a Milano potrete seguire, perlomeno gli appassionati di jazz, il concerto presente al Blue Note con protagonisti il pluridecorato batterista italiano Roberto Gatto insieme ai Quinto Rigo per celebrare la musica di Frank Zappa. E parte anche il tour della nostra Giorgia, il 14, quindi questa sera al Pala Partenope di Napoli, domani arriverà a Roma al Pala Lottomatica, il 18 al Gran Teatro Geox di Padova, il 20 al Pala Alpitour di Torino. Questi concerti nel nostro paese questa sera, e partiamo con la musica. Oggi parliamo di due cover band, perlomeno due formazioni che hanno iniziato la loro attività, hanno iniziato a farsi conoscere proprio come cover band, ovvero recuperare successi del momento, soprattutto del versante pop, dando così una nuova veste come arrangiamenti e come sonorità per far notare soprattutto il loro talento. Le due band sono i Nowhere, band californiana guidata dal batterista, tastierista, esperto di elettronica Lewis Cole, che supporta così la giovane voce di una bellissima ragazza chiamata Genevieve Artadi, che si rifà un po' a Prince. Ecco, questa è la prima formazione che vi voglio presentare per farvi capire come ragionano musicalmente i ragazzi della nuova generazione. Eccoci qui, Nowhere, che rifanno Get Lucky, un successo dei Daft Punk, brano che ha venduto milioni di copie, ma questa è una versione molto originale per i Nowhere qui al Soundcheck di Radio 24. She's up all night to the sun, I'm up all night to get some. She's up all night for good fun, I'm up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Eh sì, c'è della originalità nel sound dei Nowhere, un misto di funk e elettronica per questi due ragazzi, Lewis Cole e Genevieve Artadi, fanno tutto loro. Tra l'altro fra pochissimo verrà pubblicato un album nuovo con composizioni originali. E prima di ascoltare un'altra traccia, che invece si rifà a un successo della pop star inglese Ellie Goulding, il brano si intitola Burn, vorrei ricordarvi i concerti invece per i prossimi giorni, perlomeno per i nostri cantautori e i protagonisti della scena italiana. Allora partiamo con il concerto di domani al Pala Brescia, lunedì 15, per Fiorella Mannoia, che poi il 16 si sposterà a Bergamo al Teatro Kreberg, e il 19 e il 20 grande concerto sempre per Fiorella Mannoia all'Auditorium Giovanni Agnelli lì a Torino. C'è Stromae il 15 al Mediolanum Forum Forum di Assago e il 16-17 arriverà al Pala Lottomatica di Roma. E poi una super band si riunisce al Pala Partenope di Napoli il 16 e il 17, ovvero Pino Daniele con James Senese e Tullio De Piscopo, concerto assolutamente da non perdere. Elio le storie tese, mercoledì 17 al Campus Industry Music di Parma, Sergio Cammariere giovedì 18 all'Auditorium Parco della Musica di Roma, Mario Venuti il 18 al Zoo Centro Culturale di Arte Contemporanea a Catania, Eugenio Finardi sabato 20 ai Cantieri della Zisa di Palermo e poi un concerto jazz per Antonello Salis e la sua fisarmonica il 20 al Cambesi Jazz Club di Genova. Torniamo alla musica, un'altra traccia con il suono nuovissimo electro-funk dei Nowhere, ovvero Lewis Cole e Genevieve Artadi. Lo ripeto, questo è Burn, un successo inglese di Ellie Goulding, ma sentite che cosa combinano i Nowhere qui al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica. E anche gli svedesi Dirty Loops si sono fatti apprezzare a partire dal 2008, quando si è formato questo trio svedese composto da Jonah Nilsson, bravissimo vocalist tastierista, Henrik Linder, eclettico bassista, e Aaron Mellengart alla batteria. Si sono fatti apprezzare proponendo le loro cover super funk dei successi pop del momento. Adesso finalmente i Dirty Loops hanno firmato un bel contratto discografico con una multinazionale, hanno firmato un contratto con il manager, loro produttore Andreas Carlson, che ha anche firmato gran parte del materiale presente nel nuovo recentissimo album intitolato Loopified. Dirty Loops, grande successo per loro anche nell'ultima edizione del Montreux Jazz Festival. Spero che possano arrivare prestissimo in concerto nel nostro paese questi bravi ragazzi svedesi che suonano bene e soprattutto si divertono e divertono il pubblico. Andiamo a vedere i prossimi concerti per gli italiani viaggiatori a Parigi e a Londra. A Parigi vi segnalo l'esibizione del formidabile armonicista, uno dei più quotati al mondo negli ultimi anni, Richard Galliano, lunedì 15 alle Châtelet, Teatro Musicale di Parigi, e anche da seguire il concerto dei Deus martedì 16 alle Bataclan. Invece per chi si troverà a Londra nei prossimi giorni, da non perdere l'esibizione della piccola nuova star del contemporary R&B, Marsha Ambrosius, e anche una bravissima rapper, ultimamente si è esibita con Robert Glasper, ce l'ha detto proprio lui durante l'intervista una settimana fa, il tutto martedì 16 sempre a Londra, e poi il 17 e il 18 il grande ritorno, un grande concerto rock, due appuntamenti 17 e 18 per gli Who all'Arena O2, da non perdere gli Who, chissà che cosa combineranno. Il 17 sempre a Londra al Barbican Center ci sarà il concerto della bellissima e bravissima Ute Lemper, così come il ritorno di un veterano venerdì 19 e sabato 20 Van Morrison si esibirà al Nels Jazz and Blues Club di Londra. Questi gli appuntamenti a Londra e Parigi per gli appassionati di musica italiani che si troveranno in queste due bellissime città. Allora, torniamo al sound dei Dirty Loops. Questa è una composizione del loro producer Andreas Carlson, tratta dal nuovo recente album Loopified. Il brano si intitola Wake Me Up. Dirty Loops al Sound Check di Radio 24. Feel my way through the darkness. Guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know when it starts. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. And you're selfish, caught in the mood tonight. And you're always thinking about you, yeah. And you're selfish, conceited by your own right. Yeah, maybe it's my point of view, yeah. Sound del giovane talento australiano da Brisbane, soltanto 20 anni per Jordan Reiche, brano intitolato Selfish che troverete in Franklin's Room, album pubblicato più o meno un anno fa, ma pare che Jordan Reiche stia già lavorando sulla nuova produzione musicale e proprio nelle prossime settimane potremmo avere la possibilità di recuperare anche il singolo. Jordan Reiche ha fra le sue band di riferimento i vicini di casa, i neozelandesi Fat Freddy's Drop, anche loro appassionati di reggae e di Bob Marley. E c'è una notizia molto curiosa che riguarda proprio la famiglia Marley, che ogni anno incassa più o meno 20 milioni di dollari, pensate, soltanto per il merchandising che riguarda la diffusione delle immagini di Bob Marley attraverso libri, poster, la stampa delle magliette e via dicendo. Quindi 20 milioni soltanto per il merchandising, pensate poi quello che incassa fra royalties discografiche e diritti d'autore. Ma ci saranno dei nuovi introiti che arriveranno alla famiglia Marley per la distribuzione di un nuovo brand, ovvero Marley Natural, che riguarda medical marijuana giamaicana. Ci sono paesi in tutto il mondo, nazioni in tutto il mondo, che hanno legalizzato l'utilizzo della medical marijuana per motivi terapeutici, e quindi la famiglia Marley naturalmente non poteva che garantire un prodotto di altissima qualità, marijuana giamaicana purissima, che probabilmente verrà distribuita sul mercato internazionale anche via internet, e sono sicuro che anche dall'Italia partiranno gli ordini, perlomeno dagli appassionati di reggae e i fan di Bob Marley, se non altro per avere un feticcio. Eccoci qua. Allora, torniamo alla musica. Parlavamo del reggae di Jordan Reiche, che si è formato ascoltando i vicini di casa Fat Freddy's Drop. Nuovo singolo per loro intitolato Slings and Arrows, qui al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Nella sua Finlandia è considerato uno dei musicisti di riferimento jazz e rhythm blues. Il suo nome è Tuomo, il nome d'arte, ma il suo nome completo è Tuomo Pratla, classe 1979, nato a Helsinki, musicista che viene dal jazz, ha studiato musica classica, grande appassionato di soul e R&B. Fra i suoi musicisti di riferimento ci sono Stevie Wonder, Curtis Mayfield, Marvin Gaye e naturalmente Prince. E Prince lo si risente in questo album recentissimo intitolato New Mystique, dal quale vi abbiamo presentato Keep Looking Up. Ci sono altri concerti che vorrei presentarvi per gli italiani negli Stati Uniti nei prossimi giorni. A New York, questa sera le ragazze soprattutto potranno ammirare Justin Timberlake al Barclays Center di Brooklyn, così come vari concerti jazz. Questa sera c'è Chris Potter all'Iridium o la bellissima Latin Jazz Band diretta da Arturo O'Farrell al Birdland. Domani dal 15 al 20 c'è Cyril Aimé, la nuova star del jazz di oggi, al 59 Theater. Ravi Coltrane da martedì 16 fino al 20 al Village Vanguard. Rufus e Martha Wainwright da mercoledì 17 e giovedì 18 al Town Hall. Ci spostiamo a Los Angeles, concerto per Al Jarreau domani al Lisa Smith Wengler Center lì a Malibu, poi doppio appuntamento per Moby al Masonic Lodge a Hollywood Forever, Anthony Hamilton venerdì 19 al Future Beat e Stevie Wonder sabato 20 al Forum Inglewood. Chi si troverà sabato 20 lì a Los Angeles potrà impazzire con la musica di Stevie Wonder. E chiudiamo questa prima parte del nostro soundcheck ricordandovi che alle 19:15 saremo di nuovo in onda per dar vita al suono più jazz della nostra trasmissione. Passiamo quindi a Prince, uno dei musicisti di riferimento per Tuomo Pratla. Prince, due album pubblicati ultimamente di nuovo con la Warner Bros, avendo risolto i problemi legali legati a questa multinazionale. Prince torna da Artificial Age qui al soundcheck con Time. A tutti voi buon pomeriggio, ci sentiamo più tardi 19:15 sempre soltanto su Radio 24. Soundcheck, il suono della musica di Gigi Telesforo. Pronti per la seconda parte del soundcheck? Buonasera a tutti da Gigi Telesforo, seconda parte qui su Radio 24 dedicata all'hard bop. Ebbene sì, abbiamo attraversato l'era swing con le grandi big band, lo swing degli anni 30 fino agli anni 40, Count Basie, Duke Ellington, l'orchestra di Fletcher Anderson, il sound dello swing, la pulsazione che ha fatto ballare i nostri nonni, l'evoluzione con il bebop, i grandi strumentisti di quel periodo, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, le composizioni con melodie molto complesse e articolate, l'utilizzo di armonie che nell'era swing non si erano mai sentite, e poi l'evoluzione con l'hard bop. Sì, i giovani leoni di New York riuniti intorno a varie case discografiche, probabilmente la più importante del periodo che va fra gli anni 50 e la metà degli anni 60 è la Blue Note, che crea il suo sound riunendo in studio di registrazione i musicisti di riferimento per quel periodo, fra questi i Jazz Messengers guidati dal batterista Art Blakey e Horace Silver. I due si sono separati dopo più o meno un anno di collaborazione e il pianista Horace Silver, eccellente compositore, forma così il suo quintetto. Un album importante per l'era hard bop da non perdere se siete dei veri appassionati di jazz, ripubblicato e rimasterizzato, è quello registrato nel 1959 proprio dall'ingegnere del suono Rudy Van Gelder nei suoi studi a opera di Horace Silver, album intitolato Finger Poppin, con Blue Mitchell alla tromba, Junior Cook al sax tenore, Gene Taylor al contrabbasso, Louis Hayes alla batteria. Il brano, un capolavoro, un blues minore intitolato Come On Home, Horace Silver Quintet al soundcheck di Radio 24. questa sera celebriamo il fermento hard bop, fine anni 50, metà anni 60. Questo è un album della Blue Note per il quintetto di Horace Silver. C'è un'altra formazione storica di questo periodo, quella formata dal sassofonista Benny Golson e dal trombettista Art Farmer, che creano nei primi anni 60 i Jestet, formazione che vede anche la partecipazione del trombonista Curtis Fuller, uno dei protagonisti del periodo hard bop, un giovane pianista chiamato McCoy Tyner, che poco tempo dopo verrà coinvolto da John Coltrane per formare il suo famoso quartetto, Edison Farmer al contrabbasso, Lex Humphries alla batteria. Album quindi per i Jestet, si intitola Meet the Jestet, 1960, Penthouse Studios di New York per Art Farmer e Benny Golson, un classico del periodo intitolato Killer Joe. Soundcheck, il suono della musica. Sound inimitabile della tromba di Clifford Brown con Max Roach, questa è la loro formazione riunita nel 1956 per dare vita a un altro album capolavoro del periodo hard bop, ovvero At Basin Street. Con loro un giovane colosso come Sonny Rollins al sax tenore, Richie Powell al pianoforte, George Morrow al contrabbasso e naturalmente Max Roach alla batteria. Sì, oggi celebriamo l'hard bop, il suono sul quale si stanno formando anche i musicisti della nuova generazione, e fra i giovani leoni di quel periodo arriva un altro trombettista che poi avrà successo scrivendo The Sidewinder, il suo capolavoro, quindi Lee Morgan, un altro album per la Blue Note intitolato The Procrastinator Album, questo del 1967, con Lee Morgan alla tromba, un meraviglioso Wayne Shorter al sax tenore, il vibrafono di Bobby Hutcherson, un giovanissimo pianista chiamato Herbie Hancock, Ron Carter al contrabbasso, Billy Higgins alla batteria, anche questo un blues minore intitolato Party Time, Lee Morgan da The Procrastinator al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Ebbene sì, la Blue Note Records diventa l'etichetta di riferimento per l'hard bop fra l'inizio degli anni 50, la metà degli anni 60, e Art Blakey e Jazz Messengers creano il suono di questo nuovo movimento musicale lì a New York, e nella band di Art Blakey hanno militato tutti i musicisti più importanti di quel periodo, fra questi anche il sassofonista tenore Hank Mobley, che riunisce nei famosi Van Gelder Studio di Inglewood Cliffs nel New Jersey altri giovani leoni come Freddie Hubbard alla tromba, Wynton Kelly al pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso e lo stesso veterano Art Blakey alla batteria, per creare un altro album splendido intitolato Roll Call. E con questo brano intitolato A Baptist Beat noi chiudiamo il soundcheck di questa settimana, vi diamo appuntamento a sabato prossimo, quindi con Hank Mobley non posso che augurare a tutti voi una buona serata e buona musica da Gigi Telesforo. Questo è l'Hard Bop, Hank Mobley al soundcheck di Radio 24.